Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Signor de Serre me, o Signor de Serre me, o Signor de Serre me. Buonasera, siamo di nuovo su Ethno Chic. E soprattutto siete sempre su Radio Città del Capo, 21:34 minuti primi, 20 dicembre 2017. Ed eccoci qua, adesso abbiamo giusto un collegamento telefonico con un... Abbiamo qualcuno da remoto? Ci sei, Maria? Qualcuno che non può essere presente, ma vi saluto lo stesso. Buonasera, Azul. Ciao, Azul, buonasera. Apprezziamo lo sforzo. Ci sono con l'anima con voi. Bocca al lupo, ragazzi, vi saluto. Buona serata. Grazie. Crepi, ciao. Ciao. È così, insomma, malanni dicembrini, di cui chi è uscito, chi c'è dentro, insomma. Cari radioascoltatori, insomma, chissà, magari anche voi siete a casa, cercheremo in qualche modo di farvi passare questi momenti poco piacevoli. E appunto, ultima puntata di quest'anno solare, ultima puntata di questa trilogia dedicata al Portogallo. E come avete sentito, il primo brano, questa vira della Brigada Victor Cara, che appunto riprende le tradizioni popolari, in questo caso un brano del Ribatejo dal loro primo disco Eutufora del 1977. Dobbiamo ricordare chi era Victor Cara. Spero che i radioascoltatori lo sappiano. Victor Cara è stato uno degli esponenti principali della nuova canzone cilena, e era anche un regista, attore di teatro, anche lui ricercatore di tradizioni popolari, soprattutto aveva scritto molte canzoni con testi impegnati, è stato uno dei protagonisti del periodo di Allende, e poi è morto assassinato nello stadio Nacional del Cile durante il colpo di Stato del 73. E infatti noi parliamo proprio, oggi parliamo di quella che viene chiamata anche musica popolare portoghese da Interversao, ovvero sia quel cantautorato che connesso è legato un po' alla rivoluzione dei garofani del 74, quindi appunto l'anno dopo il colpo di Stato in Cile, l'anno in cui cade la dittatura di Salazar, che allora non c'era più Salazar, c'era il suo successore Marcelo Caetano, e comunque dopo decenni cade la dittatura in Portogallo. Questo cantautorato si esprime attraverso i propri testi, le proprie musiche, con dei linguaggi cifrati, perché non si poteva esprimere in modo palese quello che era la contestazione, soprattutto della guerra coloniale in Africa, piuttosto che della povertà, della miseria, delle campagne dimenticate, e insomma di tutto quello che succedeva in Portogallo fino al 1974, e anche attraverso il linguaggio appunto di quelle tradizioni popolari che, come abbiamo visto l'altra volta, in quegli anni venivano riscoperti da Michel Giacometti, Fernão López Grassas e tutti i loro epigoni. E il primo brano che sentiamo è proprio un po' l'antecedente del modello di quelli che sono che era la musica impegnata, insomma la classica canzone di protesta prima di questa diciamo nuova canzone, potremmo chiamare anche questo portoghese, e quindi era un tipo di canzone che era molto legata a modelli della canzone francese o comunque di un certo tipo di canzone protesta abbastanza classico, e in questo caso abbiamo Luis Cilia, che è un esponente appunto di questa canzone, anche dei fuoriusciti, insomma degli esuli politici, in questo caso a Parigi. E questo Luis Cilia scrive molti brani, è tuttora vivente, e questa Chanson des Immigrés, qui parla appunto dell'emigrazione portoghese, è un brano del 1959. Une heure pour faire ses paquets, on prend ses clics et ses claques, les nippes dans le sac et les flics sur le dos. On nous chasse dans la nuit, on nous fait voir du pays. La liberté nous suit, la liberté nous suit. Nous vivons sur un seul pied, comme les grands échassiers. Nous ne retrouvons la patrie que dans le cœur des amis. C'est la misère qui reçoit, quand on a faim, quand on a froid. Y'en a pour deux, y'en a pour trois, la misère nous reçoit. Nos passeports sont douteux, mais pour entrer dans les banlieues, il suffit d'un ventre creux, de quelque chose dans les yeux. Pas de place pour les proscrits, mais quand nous sommes repartis, y a un grand trou dans le pays, un grand trou dans le pays. Quand nous avons le cœur trop lourd, le tâche court, la vie en cours, y a des arènes au fond des cours, à Saint-Ouen de l'Estrémadour. On nous chasse dans la nuit, on nous fait voir du pays, mais la liberté nous suit, la liberté nous suit. Ecco, vedete che ci sono tutte quelle caratteristiche che possiamo pensare più del cantautorato francese, vari Boris Vian, piuttosto che Jacques Brel, e poi tutti quelli che si sono ispirati a questo tipo di musica, no? Ma infatti mi stupivo di sentirla non in portoghese, e poi, Dio, sì, più che Boris Vian sicuramente Brassens, comunque di che anni è questa canzone? È del 59, quindi proprio sì, di quegli anni. Poi insomma siamo a Parigi, non siamo a Lisbona, infatti, e però appunto Silla era riparato a Parigi? Sì, lui era riparato a Parigi, come anche un altro musicista che vedremo dopo, José Mario Branco, che però vedremo che si esprime con delle modalità già molto diverse. E entriamo proprio a parlare di questa musica popolare portoghese, con l'esponente forse più importante, più conosciuto, che è José Zeca Afonso, il quale è del 1929 ed è morto precocemente per una malattia nel 1987, e quindi è un po' il più anziano di tutti questi musicisti, e la sua esperienza è un'esperienza di diretta sia della lui praticamente cresce, i suoi anni dell'infanzia li passa in Angola, e poi addirittura più avanti insegnerà anche in Mozambico e anche sempre negli anni 40 vivrà presso la famiglia di suo zio, il quale era un fervente salazarista, quindi vive tutto le contraddizioni di insomma e la mentalità della dittatura in contraddizione con quello che poi era la realtà, per esempio, della miseria delle campagne oppure della situazione nelle colonie, che lui personalmente vede con i propri occhi. Rielaborando tutte queste cose, lui che inizia musicalmente come cantante di fado di Coimbra e incide il suo primo disco appunto come cantante di questi fado studenteschi di Coimbra, poi elabora un percorso suo personale che lo porta a essere un po' l'esponente talmente simbolo di questa nuova canzone, che una delle sue canzoni, anche a sua insaputa, sarà proprio il segnale per il sollevamento che porterà alla rivoluzione del 25 aprile 74. Il Movimento Popolare delle Forze Armate manderà in radio a mezzanotte la sua canzone Grandola Villa Romorena, che era ispirata a questi episodi di resistenza alla dittatura di questa società cooperativa di questo paesino che si chiamava appunto Grandola, e viene mandato ed è il segnale per la sollevazione delle forze armate democratiche, insomma, e poi della rivoluzione. E il suo ambul, in cui è anche compresa questa canzone, che è un po' a riferimento, è Cantigas do Maio, che appunto vede arrangiamenti molto curati, e sentiamo intanto proprio la canzone che dà il titolo a questo disco del 1978, Cantigas do Maio. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passado. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passado. Dei-lhe o meu lenço de linho, que é do mais fino bragal. Dei-lhe o meu lenço de linho, que é do mais fino bragal. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, chore por quem muito amargou, ai, chore por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou. donzela numa barquinha a dormir. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar. Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, chore por quem muito amargou, ai, chore por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou. Minha amada lá nos campos eu fui ver a minha amada lá nos campos eu fui ver. Dei-lhe uma rosa encarnada para de mim se prender. Dei-lhe uma rosa encarnada para de mim se prender. Verdes prados, verdes campos, onde está a minha paixão? Verdes prados, verdes campos, onde está a minha paixão? As andorinhas não param, umas voltam, outras não. As andorinhas não param, umas voltam, outras não. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, chore por quem muito amargou, ai, chore por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou. Grande Vladimiro che hai portato un vecchio vinile qua in radio. Ah sì, questo effettivamente è da un vinile, insomma, proprio il vinile originale, che poi è uno, l'unico disco in italiano che è uscito, unica ristampa in italiano che è uscita di Zeca Afonso. Bella pittoresca anche. Portogallo 25 aprile, quindi chiaramente non nel 71 ma dopo il 74. E qui c'era molto riferimento velato alla guerra, a lasciare la propria terra, le contraddizioni, sul negare le condizioni appunto rispetto a quello che succedeva sia nelle colonie sia che succedeva nelle campagne con la miseria e l'immigrazione. E in questo caso abbiamo sentito che sia il tipo di vocalità che utilizza Zeca sia comunque il suono ricorda molto quel fado da cui lui trae origine, mentre i prossimi due brani che andiamo a sentire si rifanno molto invece a quella tradizione portoghese che lui proprio era andato un po' a cercare, sempre sulla scia appunto delle ricerche che parallelamente venivano portate avanti dai vari studiosi e anche portate in televisione. E quindi sentiamo questa ronda da Shmakvarikash, che sarebbero poi le streghe, sempre dal disco Cantigas do Maio del 1971. Estavam todas juntas, 400 bruxas, à espera, da lua cheia. Estavam todas juntas, vem o chibo velho dançar no adro, alguém morreu. A tua marreca leva-me primeiro para a cova aberta. Arlindo Coveiro, com a tua marreca leva-me primeiro para a cova aberta. Arlindo, Arlindo, bailador das fadas, vem ao pé coxinho, cava-me morada. Namorada, deixa-me o jazigo, quero campo a rasa. Arlindo, Arlindo, bailador das fadas, vai ao pé coxinho, cava namorada. Ci siamo sempre su Radio Città del Capo 94.7 96.250 Ecno Chic, e il prossimo brano di Zeca Afonso, sempre lo stesso disco, è questo Maio Maduro Maio. Ricordiamo arrangiamenti di José Mario Branco, che è un altro importante esponente della musica popolare brasileira da Interversão. Maio, maduro maio, quem te pintou? Quem te quebrou o encanto, nunca te amou? Raiava o sol já no sul. Tiri-tiri-tiri. Uma falua vinha lá de Istambul. Sempre depois da sexta, chamando as flores, era o dia da festa, maio de amores. Era o dia de cantar. Uma falo andava ao longo de Havana. ma io con mio amico che indereggia. Sempre no mesmo trio se cantará. Que importa a fúria do mar? Que a voz não te esmoreça, vamos lutar. Uma rua comprida me arrepastou, vendo o soro da vida que mata a dor. Anda a ver maio nascer, que a voz não te esmoreça, a turba romper. Que a voz não te esmoreça, a turba romper. Sembra un disco prog inglese o italiano coevo. Ma c'è da dire che chiaramente, oltre a riscoprire le tradizioni popolari, l'impegno e tutto quanto, come abbiamo visto nella prima puntata sul tropicalismo in Brasile, la reazione al clima un po' oscurantista e retrogrado, insomma, dal punto di vista culturale della dittatura salazarista, e anche la ricerca appunto e l'uso di certe musiche pop che insomma in quegli anni andavano, quindi dai Beatles al prog, insomma alla ricerca di qualche suono un pochino al di fuori di quelli stereotipizzati. E quindi siamo arrivati al 25 aprile 74, ci sono un paio di anni in cui c'è una grande spinta rivoluzionaria, di grande partecipazione popolare, per esempio soprattutto al sud si formano le prime cooperative di agricoltori, di pescatori, e appunto questo clima di grande fermento in cui gente da tutta Europa viene anche poi in Portogallo a vedere la rivoluzione in diretta in qualche modo, a partecipare, e c'è anche appunto questa canzone di questo film che Zeca Afonso scrive, che si chiama Osindo da Merea Praia, che appunto celebra la creazione di queste prime cooperative di pescatori nell'Algarve, quindi nella regione del sud del Portogallo. Aldeia da meia praia, ali mesmo ao pé de lagos, vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama, com sete palmos de terra se constrói uma cabana. Tu trabalhas todo o ano na lata, deixam-te mudo, chupam-te até ao tutano, levam-te o couro cabeludo. Quem dera que a gente tenha de Agostinha valentia, para alimentar a senha de esganar a burguesia. Adeus, disse a Monte Gordo, nada aprendo ao mal passado, mas nada aprendo ao presente se só ele é o enganado. Oito mil horas contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E se a má língua não cessa, eu daqui vivo não saia, pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre a tua figura, tubarão de mil aparas. Deixas tudo à dependura quando na presa reparas. Das eleições acabadas, do resultado previsto, sei o que tendes visto, muitas obras embargadas. Mas não por vontade própria, porque a luta continua, pois é dele a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás, dizem que o mundo só anda tendo à frente um capataz. Mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E toca de papelada no vai-vem dos ministérios, mas onde fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada. Sempre su Etno Chic, stiamo ascoltando musica popolare portoghese da Interversao, ovvero sia quel cantautorato che a partire da già dagli anni 60 si interessa insomma della situazione politica del Portogallo e contribuisce in qualche modo al suo cambiamento. E il prossimo personaggio che andiamo a incontrare è proprio l'arrangiatore del disco Cantigas do Maio, di cui abbiamo sentito diversi brani prima, di Zeca Afonso, ovvero sia Jomés Mário Branco, che anche lui tuttora vivente, più giovane di Zeca Afonso, e nel 71 scrive questa canzone che appunto anche lei si prende beffe tra le righe della situazione portoghese, del suo sistema di potere corrotto, della guerra, dell'immigrazione, insomma immaginando una specie di corte dei miracoli in una specie di mercato. E non a caso la canzone si chiama O Charlatão, cioè il ciarlatano. Ma questi musicisti furono perseguitati un po' come i tropicalisti brasiliani degli stessi anni? Sì, Zeca Afonso è stato in prigione, era comunque molto stimato, ma per fare le recensioni i giornalisti dovevano scrivere il suo nome al contrario sui giornali. Quindi cosa scrivevano? Di questo tipo. E quindi bisogna farlo, adesso non me lo ricordo. Osnafo a Zez? No, non Zeca, perché Zeca è il soprannome, José, quindi José sarebbe Osei o Snafo, una cosa di questo tipo. E José Mário Branco è stato proprio esule anche lui a Parigi per un periodo e poi è tornato. E vedremo, insomma. Intanto sentiamo questa canzone prima della caduta della dittatura, che è O Charlatão. Chegam-lhe toda a semana em camionetas cerezas doces paga amarga. No beco dos malfadados, os catraios passam fome. Tenho os dentes enterrados no pão que ninguém mais come. Os catraios passam fome. Entra, senhorias, a ver o que cá se abre. Sete ratos, três enguias, uma cabra abra cadabra. Na travessa dos defuntos, charlatões e charlatões discutem dos seus assuntos, repartem-se em quatro zonas, instalados em poltronas. Para a rua saem toupeiras, entrou frio nos buracos, dorme gente nas soleiras das casas feitas em cacos, em troca de alguns patacos. Entrar, senhorias, a ver o que cá se labra. Sete ratos, três enguias, uma cabra abra cadabra. Entre a rua e o país vai o passo de um anão. Vai o rei que ninguém quis, vai o tiro de um canhão. E o trono é do charlatão. Entre a rua e o país vai o passo de um anão. Vai o rei que ninguém quis, vai o tiro de um canhão. E o trono é do charlatão. Entrar, senhorias, a ver o que cá se labra. Sete ratos, três enguias, uma cabra abra cadabra. Entrar, senhorias, a ver o que cá se labra. Sete ratos, três enguias, uma cabra abra cadabra. Entrar, senhorias, a ver o que cá se labra. Entrar, entrar, entrar, senhorias, entrar, entrar. Ed eccoci qua, e questo era José Mario Branco, 1971, Charlatan. Il Charlatano. Il Charlatano, e questo c'era molto entusiasmo in questi anni. 11 anni dopo magari ce n'è un po' meno, perché alcune speranze sono un po' perdute in qualche modo. Insomma, la situazione è andata molto più nei ranghi, insomma il periodo rivoluzionario si è un po' concluso e quindi lo sentiamo proprio un po' anche nel tono un po' di questo essere solidario da questo disco in cui tassò. Beh, periodo rivoluzionario che è durato poi quel che è durato. Un anno e mezzo, due, finché poi c'è stato un altro colpo di Stato, un po' sponsorizzato dagli Stati Uniti, che ha rimesso un po' in sesto le cose, ha risistemato un po' in modo che la cosa non uscisse troppo dal seminato. E poi mi sa che entrare nell'Unione Europea abbia normalizzato definitivamente il Portogallo. Sì, sì, questo solidario un po' racconta un po' di questa triste normalizzazione.

janela com o teu cabelo à lua não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua sem levar uma prenda tua sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina, estás à janela. Os olhos requerem olhos, os corações, corações. Querem-nos teus em todas ocasiões, menina. Estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua sem levar, uma prenda tua sem levar. Uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina, estás à janela. E piano piano ci arriviamo verso la fine, infatti adesso arriviamo ancora più verso i nostri giorni e comunque è sempre uno sempre di questi, musica popolare. Sì, sempre cantautorato. E questo Fausto Bordalo Díaz è il nome completo, nato nel 1948 su una nave sull'Atlantico che lo portava in Angola, anche lui. Quindi aveva a che fare con questo e abbiamo questo Lembrame un sogno lindo. Un colonialismo attivo, non solo Pessoa si è fatto vari viaggi. Esatto. Lembra-me um sonho lindo, quase acabado. Lembra-me um céu aberto, outro fechado. Estala a madeira em sangue, estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Canta roxo e não canta, não me despenca. Cresce, gira, sol cresce entre açucenas. Afaga-me o corpo todo se te pertenço. Rasga-me o ventre ardendo em fumos de incenso. Lembra-me um sonho lindo quase acabado. Lembra-me um céu aberto, outro fechado. Estalamada em sangue, estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Ai, como eu te quero. Ai, de madrugada. Ai, alma da terra. Assim deitada. Ai, como eu te amo. Ai, tão sossegada. Ai, vejo-te o corpo. fechado. Siamo ai saluti, se riusciamo diciamo invitiamo a sfumare un brano di Lula Peña, una voce femminile, una canzone invece di Caetano Veloso. Niente, buonanotte a tutti. Buonanotte e buon anno, direi buone feste e ci rivediamo con l'anno che viene. Ci sentiamo il prossimo anno, buonanotte e buon ascolto con Radio Città del Capo. Ciao. Barco meu coração não aguenta tanta tormenta alegria meu coração não contenta o dia o marco meu coração. navegar é preciso viver, não é preciso. Navegar é preciso viver, não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada, o riso, o charco. A madrugada vai, o porto nada. Navegar é preciso viver, não é preciso. Navegar é preciso viver, não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco. Porto, silêncio. Navegar é preciso viver, não é preciso, ai não. Navegar é preciso viver, não é preciso. Navegar é preciso viver, viver não.